che mi spingono su, dritto verso il blu. Queste tracce di sapore, queste macchie di colore su cui scivolo giù, dritto verso il blu. Aspiro a vari colori, vado fuori, nella natura si respira aria per i polmoni. Catturo vari rumori, li trasformo in nuovi suoni. Elaboro, preparo la mia mente a nuove visioni. Prendo il mio pennello, la mia tela, tutto ciò che mi ispira sta in una giornata intera. E non importa se sia sera o mattina, basta la mia tavolozza e la passione di una vita. Tra le dita, acrilico che cola in una pozza da vita, a un'opera d'arte astratta e smarrita. La cerco di continuo, ma un istante ed è finita. La mia musa mi chiama da lontano, con voce soave rispondo incantato al richiamo. Insieme infrangiamo ogni barriera, dall'alto sogniamo e dipingiamo una chimera. Sono macchie di colore come tracce di sapore che mi spingono su, dritto verso il blu. Queste tracce di sapore, queste macchie di colore su cui scivolo giù, dritto verso il blu. Non vi vedo, sono un pittore cieco, vedo colori, chiedo alla madre terra di darmi una mano. Spreco sempre meno per rispettarla fino in fondo e prego. Alla sorgente acrilico, sulla retina colori in bilico, forme, somme matematiche codificate con occhio clinico. Già so che un ossido darà vita, tematica assemblata a caso, peso lo stile sul bilico. Porporado muri, c'è su muro un codice che non cancelli da millenni. I sogni aprono cancelli e liberi, liberano percezioni, è insito nell'uomo ridipingere i propri castelli. Sono macchie di colore come tracce di sapore che mi spingono a sud, dritto verso il blu. Queste tracce di sapore, queste macchie di colore su cui scivolo giù, dritto verso il blu. È linfa che ispira, con orizzonti intensi, scioglie umori densi. La natura detta legge fa vibrare i cinque sensi, continua a perdonarci danni immensi. Capitali marachelle, il cielo è sempre più blu, mica le mozzarelle. Il resto non conta quando guardo le stelle, mica mi lanto, mi inchino al cospetto, dico tanto incanto. Di flora e fauna fa banto, tanto che annaspo al luccichio del mare crespo, al suono che conosco del canto estivo di cicale. Come puoi pensare che sia banale? Una mela, profonda ammirazione per l'architettura di una ragnatela, l'odore che svela la pioggia sul selciato, al tatto di mille bucce che ho sfiorato, colpito dai pigmenti del creato, da frame eterni, il 3D naturale di uno stormo di storni, i sapori di colori di 30 inverni, corposi come polpa che assaggio, recito il mia culpa per non aver mai dipinto un paesaggio. Nessun presagio è l'appartenenza ad una razza che respira ancora guerra. M9 spreco chi nella mia ode alla terra.